Orlando, capitolo primo. Egli, poiché non c'era dubbio sul suo sesso, sebbene la moda del tempo lo dissimulasse alquanto, stava prendendo a piattonare la testa di un moro che dondolava appesa alle travi. Aveva il colore di una vecchia palla di cuoio e anche la forma approssimativa, tranne per le guance incavate e per una ciocca di capelli duri e aridi come peli di una noce di cocco. Il padre di Orlando, o forse il nonno, l'aveva spiccata dal busto dell'enorme infedele che improvvisamente gli si era parato davanti al chiar di luna nelle barbare distese africane, e ora essa oscillava dolcemente, incessantemente, alla brezza che soffiava perenne sulla loggia in cima all'immensa dimora del signore che lo aveva ucciso. I padri di Orlando avevano cavalcato per campi di asfodeli e per campi sassosi e per campi bagnati da fiumi ignoti, e da molti busti avevano spiccato molte teste di vario colore e le avevano riportate a casa per appenderle alle travi. Altrettanto giurava di fare Orlando, ma poiché aveva solo 16 anni ed era troppo giovane per cavalcare al loro fianco in Africa o in Francia, soleva sfuggire alla madre e ai pavoni del giardino e recarsi nella loggia a mulinarvi con la lama stoccate a fondi e piattonate. A volte tagliava di netto la corda, così che il cranio rimbalzava al suolo ed egli doveva legarlo di nuovo. E allora, non senza cavalleria, lo assicurava quasi fuori di portata, provocando un ghigno di trionfo sulle labbra secche e nere del suo nemico. Il cranio dondolava su e giù, perché la casa, nella cui parte alta Orlando viveva, era tanto vasta che vi sembrava prigioniero il vento stesso, che soffiava in lungo e in largo, d'inverno ed estate. L'arazzo verde con le figure dei cacciatori si muoveva senza posa. I suoi padri erano stati nobili fin dalla loro origine. Erano venuti dalle brume nordiche portando corone sulla testa. Non era il sole che cadeva attraverso le maglie di una grande insegna araldica sulla vetrata a striare d'ombra la sala, chiazzando il pavimento di una scacchiera di pozze gialle. Orlando si ergeva ora sul corpo giallo di un leopardo araldico, quando poggiò la mano sulla maniglia della finestra per aprirla, e subito gli si colorò di rosso, di azzurro e di giallo come un'ala di farfalla. E gli amanti dei simboli, che si compiacciono di decifrarli, avrebbero potuto notare che, mentre le sue gambe tornite, il suo corpo armonioso, le sue spalle ben formate, erano tutte variamente screziate di colori araldici, non altro che il sole illuminò il viso di Orlando allorché spalancò la finestra. Impossibile trovare un viso più candido e più fiero. Felice la madre che porta in seno un tale essere, e più felice ancora il biografo che ne tramanda la vita. L'una non dovrà mai affliggersi, né l'altro invocare aiuto di romanziere o poeta. Di gesta in gesta, di gloria in gloria, di onore in onore, egli farà il suo cammino, seguito dal suo scriba, finché raggiungeranno il coronamento supremo delle loro aspirazioni, qualunque sia. A prima vista Orlando appariva tagliato proprio per una simile carriera. Il rosso delle guance era coperto da una peluria di pesca. Sul labbro la peluria era appena un po' più fitta che sulle guance. Le labbra erano brevi e leggermente rialzate sui denti di una squisita bianchezza di mandorla. Nulla turbava il breve, teso volo di freccia del naso. I capelli erano scuri, le orecchie piccole e aderenti alla testa, ma ahimè, questa enumerazione di giovanili bellezze non può terminare senza menzionare fronte e occhi. Di rado se ne esce privi. E appena ci cade l'occhio su Orlando in piedi vicino alla finestra, dobbiamo ammettere che aveva gli occhi come viole madide, così grandi che l'acqua sembrava averli impregnati e dilatati, e la fronte ricurva come una cupola marmorea incastonata tra i due medaglioni politi delle tempie. Appena posiamo lo sguardo sui suoi occhi e sulla sua fronte, subito ci assale l'estro poetico. Appena posiamo lo sguardo sui suoi occhi e sulla sua fronte, dobbiamo ammettere 1.000 cose spiacevoli che ogni buon biografo si propone di ignorare. Alcuni spettacoli lo disturbavano, come quello di sua madre, splendida dama vestita di verde che usciva seguita dalla cameriera, Twitchet, per dar da mangiare ai pavoni. Altri lo esaltavano, gli uccelli, gli alberi, e lo innamoravano della morte, come il cielo serale e il volo di corvi verso il nido. E così, salendogli per la scala a spirale fino al cervello, che era assai vasto, Tutti quegli spettacoli ed anche i rumori provenienti dal giardino, il battere di un martello, i colpi d'ascia sul legno, suscitavano quel sovvertimento, quel disordine delle passioni e delle emozioni che ogni buon biografo detesta. Ma proseguiamo. Orlando si ritrasse lentamente, sedette al tavolo e con l'aria semicosciente di chi compie il gesto che gli è abituale ogni giorno della sua vita a quell'ora, estrasse un quaderno con la scritta Ethelbert, tragedia in cinque atti, e tuffò nell'inchiostro una vecchia penna d'oca macchiata. Ben presto ebbe riempito 10 pagine più di poesia. Era con ogni evidenza di facile vena, ma astratto. Il vizio, il delitto, la sventura erano i personaggi del suo dramma. C'erano re e regine di territori inverosimili, trame orrende li mandavano in perdizione, nobili sentimenti li colorivano, non c'era mai una parola come lui stesso l'avrebbe pronunciata, ma tutto era avvolto da una fluidità e una dolcezza abbastanza notevoli, considerando la sua età, non aveva ancora 17 anni, e il fatto che il corso del XVI secolo non era ancora concluso. Alla fine, tuttavia, si fermò. Come fa sempre ogni giovane poeta, egli stava descrivendo la natura e, per definire l'esatta sfumatura di verde, guardò, dimostrando più audacia di tanti altri, l'oggetto stesso, che era per l'appunto un cespuglio d'alloro che cresceva sotto la finestra. Dopodiché, naturalmente, non poté riprendere a scrivere. Il verde in natura è una cosa, il verde in letteratura è un'altra. La natura e le lettere sembrano nutrire una spontanea antipatia. Mettetele insieme e si faranno a pezzi. La sfumatura di verde che Orlando vedeva gli sciupava la rima e gli distruggeva il metro. Inoltre, la natura ha le sue astuzie. Basta vedere dalla finestra delle api tra i fiori un cane che sbadiglia, il sole che tramonta e si pensa quanti soli al tramonto vedrò ancora, eccetera, eccetera. Il pensiero è troppo noto per meritare d'essere svolto, e si lascia cadere la penna e si prende il mantello, si esce a gran passi dalla stanza in quel mentre si inciampa in una cassapanca dipinta. Perché Orlando era un tantino sbadato. Ebbe cura di evitare qualsiasi incontro. C'era Stubbs, il giardiniere, che veniva lungo il sentiero. Orlando si nascose dietro un albero finché non fu passato. Uscì da un cancelletto nel muro di cinta del giardino. Fiancheggiò le scuderie, i canili, le cantine e le botteghe dei falegnami, i lavatoi, i luoghi dove si fabbricavano candele di sego, si macellava il bestiame, si forgiavano ferri da cavallo, si cucivano farsetti, poiché la casa era una cittadella brulicante di artigiani intenti ai loro vari mestieri. E raggiunse il sentiero tra le felci, quello che l'avrebbe condotto, non visto, attraverso il parco in cima alla collina. Forse c'è una parentela tra le qualità. Una ne attira un'altra, e qui il biografo dovrebbe richiamare l'attenzione sul fatto che la sbadataggine si accompagna spesso all'amore per la solitudine. Poiché aveva inciampato in una cassapanca, Orlando amava per natura i luoghi solitari e i vasti panorami, e amava sentirsi per sempre, per sempre, per sempre solo. Quindi, aprendo bocca per la prima volta in queste memorie, sono solo, mormorò. Infine, dopo un lungo silenzio, aveva camminato a passo molto svelto tra le felci e i biancospini, mettendo in fuga daini e uccelli selvatici su fino a una radura coronata da una quercia solitaria. Il luogo era elevato, tanto da lasciar vedere nella pianura 19 contee inglesi e nelle giornate limpide 30 o forse 40 se il tempo era particolarmente bello. Talvolta si distingueva il canale della Manica, onda su onda incessante. Si vedevano fiumi solcati da barche da diporto e galeoni che prendevano il largo e flotte che mandavano sbuffi di fumo da cui usciva sordo il rombo del cannone che sparava. E fortini sulla costa e castelli in mezzo ai prati, e qui una torre di guardia e là una fortezza, e ancora vaste dimore come quella del padre di Orlando. Si ergevano nella valle come cittadelle cinte di mura. A est c'erano le guglie di Londra e la caligine della città, e forse all'orizzonte, quando il vento era propizio, anche la cima scoscesa e le creste dentellate di Snowdown apparivano montagnose tra le nubi. Per un momento Orlando sostò a contare, ad aguzzare lo sguardo, a riconoscere. Quella era la casa di suo padre, quell'altra di suo zio. A sua zia appartenevano quei tre grandi torrioni laggiù tra gli alberi. La brughiera era loro e la foresta. E il fagiano, e il daino, la volpe, il tasso e la farfalla. Sospirò profondamente e si gettò. C'era nei suoi gesti una passione che merita la parola, sulla terra al piede della quercia. Amava sentire, sotto l'effimera apparenza dell'estate, la spina dorsale della terra sotto di sé, perché tale era per lui la dura radice della quercia. Oppure, nella catena delle immagini, era il dorso di un grande striero che cavalcava, o la tolda di una nave beccheggiante. Qualunque cosa, insomma, di solido, perché sentiva il bisogno di ormeggiare il suo cuore fluttuante. E il cuore che gli dava strappi in petto, il cuore che ogni sera in quella stagione, quando usciva, pareva ricolmo di speziate, languide brezze d'amore. Alla quercia lo legò e, standosene disteso, a poco l'eccitazione dentro e intorno a lui si acquietò. Le foglioline sostarono pendule, il daino si fermò, le pallide nuvole estive si arrestarono, le membra gli si fecero gravi al suolo. Giacque così, fermo, che passo passo il daino si avvicinò, i corvi gli ruotarono intorno e le rondini si tuffarono e volteggiarono e le libellule gli sfrecciarono accanto, come se tutta la fertilità e il fervido tripudio amoroso della sera d'estate tessessero la loro trama intorno al suo corpo. Dopo forse un'ora, il sole scendeva rapidamente, le nubi bianche trascoloravano in rosso, le colline erano violette, i boschi purpurei, le valli nere. Una tromba squillò. Orlando balzò in piedi. Il suono acuto veniva dalla valle, veniva da una macchia nera laggiù, una macchia compatta e circoscritta. Un labirinto, una città, benché cinta di mura. Veniva dal cuore stesso della sua grande casa nella valle, che, prima buia, sotto i suoi occhi, e mentre quella tromba solitaria riecheggiava infinite volte i suoi squilli acuti, perdeva la sua oscurità e si traforava di luci. Alcune erano piccole luci frettolose, come di servi trafelati lungo i corridoi per accorrere a una chiamata. Altre erano luci alte e smaglianti, come se brillassero in sale da banchetto deserte, preparate per ricevere ospiti mai arrivati. E altre si tuffavano e oscillavano, ricadevano e si alzavano, come impugnate da turbe di servitori che si inchinassero, si inginocchiassero, si rialzassero, ricevessero e scortassero nel palazzo con tutti gli onori una gran principessa che scendesse dal suo cocchio. Equipaggi facevano il giro del cortile, cavalli scuotevano i pennacchi, era arrivata la regina. Orlando non guardò oltre, scese a precipizio la collina, rientrò per un cancelletto, divorò la scala a chiocciola, raggiunse la sua camera, gettò le calze da una parte della stanza, il farsetto dall'altra, tuffò la testa nell'acqua, si tagliò le unghie, in meno di 10 minuti all'orologio delle scuderie, con l'aiuto di soli 6 pollici di specchio e di 2 moccoli, infilò le brache scarlatte, la gorgiera di merletto, il giustacuore di taftà e scarpe ornate di rosette grandi come dalie doppie. Era pronto, era rosso, era eccitato, ma era in grave ritardo. Per scorciatoie a lui note, si incamminò per la vasta congerie di stanze e scalinate, fino alla sala del banchetto, lontana 5 acri, all'altra ala del castello. Ma a mezza strada, nei quartieri sul retro dove viveva la servitù, si fermò. La porta della sala della signora Stukely era aperta. Sicuramente, con tutte le sue chiavi, era andata ad attendere agli ordini della padrona. Ma là, seduto al tavolo dei servi, con un boccale accanto a sé, un foglio di carta davanti, era seduto un uomo piuttosto grasso e trasandato, con un collaretto un po' sporco, vestito di rozzo bigello. Aveva una penna in mano, ma non scriveva. Pareva che mulinasse in mente qualche pensiero, rimuginandolo fino a dargli forma e peso a suo talento. Gli occhi, sporgenti e nebulosi come pietre verdi di grana singolare, erano fissi. Non vide Orlando, che malgrado la fretta si fermò di colpo. Costui era un poeta? Stava scrivendo versi? Ditemi, voleva chiedergli, ditemi ogni cosa al mondo. Poiché Orlando aveva le più sfrenate, le più assurde, le più stravaganti idee sui poeti e sulla poesia. Ma come parlare a uno che non vi vede? che al posto vostro vede orchi, satiri, forse gli abissi del mare. Così Orlando guardava a bocca aperta quell'uomo che rigirava la penna tra le dita di qua e di là e fissava e meditava e poi di getto scrisse una mezza dozzina di righe e alzò lo sguardo. Ma a questo punto Orlando, sopraffatto dalla timidezza, partì come una freccia e giunse alla sala del banchetto appena in tempo per cadere in ginocchio ed offrire, chinando confuso il capo, una coppa d'acqua di rose alla grande regina in persona. Era tale la sua timidezza che di lei non vide altro che la mano inanellata immersa nell'acqua. Ma gli bastò. Era una mano memorabile, una mano sottile, con lunghe dita sempre ricurve come a serrare scettro o globo. Una mano nervosa, bisbetica, malaticcia, una mano imperiosa, una mano a cui bastava levarsi per far cadere una testa. Una mano, intuì Orlando, attaccata a un vecchio corpo che emanava l'odore di un armadio che racchiude pellicce nella canfora. Un corpo, tuttavia, bardato d'ogni sorta di broccati e gemme, che si teneva bene eretto, nonostante forse i dolori di sciatica, e non cedeva, malgrado fosse agitato da mille terrori. E gli occhi della regina erano giallo pallido. Tutto questo sentì, mentre i grandi anelli fiammeggiavano nell'acqua, e poi qualcosa gli premé sui capelli. Il che, forse, ci rivela che egli non vide nient'altro che possa essere utile a uno storico. E in verità, nella sua mente c'era un tale tumulto di contrasti. La notte, le candele fiammeggianti, il poeta trasandato e la grande regina, i campi silenziosi e il vociare dei servitori, che non poté vedere nulla, o solo una mano. A sua volta, la regina avrà visto solo una testa. Ma se da una mano è possibile dedurre un corpo, dotato di tutti gli attributi di una grande regina, il suo carattere bisbetico, il suo coraggio, le sue fragilità, i suoi terrori, certamente una testa può essere altrettanto rivelatrice, vista dall'alto di un trono, da una dama i cui occhi, se dobbiamo prestar fede alle cere dell'abbazia, erano sempre ben aperti. I lunghi capelli ricciuti, la testa bruna, china davanti a lei con tanta reverenza e innocenza, implicavano le più belle gambe che mai abbiano portato giovane gentiluomo, e occhi di viola, e un cuore d'oro, e lealtà e grazie virili, tutte qualità che la vecchia tanto più amava quanto più le sfuggivano. Perché diventava vecchia e frusta e curva innanzitempo, aveva sempre nelle orecchie il rombo del cannone, vedeva ovunque scintillare la goccia di veleno e il lungo stiletto. Seduta a mensa, tendeva l'orecchio, udiva i cannoni nella manica, era presa da terrore. Era una maledizione, era un bisbiglio. Innocenza, semplicità le erano tanto più care quanto più le risaltavano su uno sfondo cupo. E vuole la tradizione che quella stessa notte, mentre Orlando dormiva profondamente, apponendo firma e sigillo alla pergamena, lei facesse al padre di Orlando dono formale del gran monastero che era appartenuto prima all'arcivescovo e poi al re. Orlando dormì ignaro tutta la notte, senza saperlo, era stato baciato da una regina. E forse, poiché i cuori femminili sono labirintici, fu la sua ignoranza e il sussulto che gli ebbe quando le labbra regali lo toccarono a mantenere viva in lei la memoria del giovane cugino, perché avevano sangue comune. Ad ogni modo, non erano trascorsi 2 anni di quella tranquilla vita di campagna. Orlando non aveva scritto forse più di 20 tragedie, una dozzina di drammi storici e una ventina di sonetti, quando giunse un messaggio che lo chiamava al servizio della regina a Whitehall. «Ecco», disse vedendolo avanzare verso di lei dal fondo della lunga galleria, «il mio innocente». Spirava da lui una serenità che arieggiava l'innocenza, anche quando tecnicamente la parola era ormai inapplicabile. «Venite», disse lei. Sedeva rigida e impettita presso il caminetto. Lo fermò a un passo da sé e lo squadrò dall'alto in basso. Confrontava le sue supposizioni di quella sera con la verità ora visibile. Trovava giuste le sue congetture? Il suo sguardo scivolò sugli occhi, la bocca, il naso, il petto, i fianchi e le mani. Le sue labbra sussultarono visibilmente mentre guardava, ma quando vide le gambe rise sonoramente. Era la perfetta immagine di un nobile gentiluomo, ma interiormente dardeggiò su di lui gli occhi di falco, come per trafiggergli l'anima. Il giovane sostenne quello sguardo, ornandosi solo di un rossore di rosa damaschina. Vigore, grazia, fantasia, follia, poesia, giovinezza, leggeva in lui come in un libro aperto. Si strappò rapido un anello dal dito, la giuntura era un po' gonfia, e infilatolo a quello di lui lo nominò suo tesoriere e gran maestro di casa. Gli passò quindi al collo le catene del suo grado e, ordinatogli di piegare il ginocchio, vi allacciò alla parte più snella l'ordine gemmato della giarrettiera. Dopodiché nulla gli fu negato. Quando la regina usciva in pompa magna, egli cavalcava a fianco del suo cocchio. Lo mandò in Scozia, in una triste ambasciata per l'infelice regina Maria Stuarda. Era sul punto di imbarcarsi per le guerre di Polonia, quando lei lo richiamò. Come avrebbe potuto sopportare il pensiero di quelle tenere carni dilaniate, di quella testa ricciuta rotolante nella polvere? Lo tenne con sé, all'apogeo del suo trionfo, mentre i cannoni tuonavano sulla torre di Londra e l'aria era così spessa di polvere da far sternutire e gli urrà della folla risuonavano sotto le finestre, lo attirò a sé tra i cuscini dove le sue donne l'avevano adagiata. Era così vecchia e consunta. E gli fece affondare il volto in quel sorprendente effluvio, da un mese non si era cambiata d'abito, che, diamine, pensava Orlando richiamando i suoi ricordi d'infanzia, aveva proprio l'odore di un vecchio mobile di casa sua, dove erano stipate le pellicce di sua madre. Si alzò, mezzo soffocato dall'abbraccio. «Questa», esalò la regina, «è la mia vittoria». E in quel momento un razzo si alzò, sibilando, e le colorò le guance di scarlatto. Perché la vecchia donna lo amava e la regina, che sapeva riconoscere un uomo al primo sguardo, benché, si dice, non nel modo solito, ordì per lui una splendida, ambiziosa carriera. Terre gli furono donate, case gli vennero assegnate. Egli sarebbe stato il figlio della sua vecchiaia, il sostegno della sua infermità, la quercia a cui appoggiare il suo declino. Gli gracchiava tali promesse e singolari imperiose effusioni, seduta impettita, nei suoi broccati rigidi vicino al fuoco, che per quanti ceppi vi ammassassero mai la riscaldava. Intanto passavano i lunghi mesi d'inverno, tutti gli alberi del parco erano profilati di gelo e il fiume scorreva a stento. Un giorno che il suolo era coperto di neve e le sale dai cupi pannelli erano colme d'ombre e i cervi bramivano nel parco, lei vide nello specchio che per paura delle spie si teneva sempre vicino, al di là della porta che per paura dei sicari teneva sempre aperta, un ragazzo, Orlando forse, che baciava una ragazza. Per tutti i diavoli chi era quella sfrontata sgualdrina? Afferrò la spada dall'elsa d'oro e colpì con violenza lo specchio. Il vetro andò in frantumi. Accorse gente, venne sollevata e adagiata di nuovo nella sua poltrona, ma rimase molto abbattuta e verso la fine dei suoi giorni brontolava spesso contro la slealtà dell'uomo. Forse Orlando era in colpa, eppure, dopo tutto, dobbiamo biasimarlo. Era l'epoca elisabettiana, la loro morale non era la nostra, né i loro poeti, né il loro clima, e neanche i loro legami. Tutto era diverso. È da credere che anche il tempo, il freddo e il caldo dell'inverno e dell'estate fossero ugualmente d'altra tempra. L'amoroso giorno splendente era diviso dalla notte altrettanto nettamente quanto la terra dall'acqua. I tramonti erano più rossi, più intensi, le albe più bianche, più aurorali. Delle nostre penombre indistinte, dei nostri crepuscoli languidi, non sapevano nulla. La pioggia cadeva violenta o non cadeva affatto. Il sole divampava o regnava il buio. Traslando tutto questo nelle regioni spirituali, come loro abitudine, i poeti cantavano splendidamente il morire delle rose e il cadere dei petali. L'attimo è breve, cantavano, l'attimo è fuggito, tutti ci attende il sonno di una lunga notte. Quanto a usare gli artifici delle serre e degli erbari per prolungare o preservare la freschezza di quelle rose o garofani, non era nel loro stile. Le rugose complicazioni e le ambiguità della nostra epoca, più sfumata e dubbiosa, erano loro sconosciute. La violenza era tutto. Il fiore sbocciava e appassiva, il sole sorgeva e tramontava, l'amante amava e se ne andava. E ciò che il poeta diceva nei versi, i giovani lo mettevano in pratica. Le ragazze erano rose e la loro stagione era breve come quella dei fiori. Bisognava coglierle prima del calare della notte, perché il giorno era breve e il giorno era tutto. Se dunque Orlando assecondava il clima, i poeti, l'epoca stessa, e coglieva il suo fiore nel vano di una finestra, anche con la neve che copriva la terra e la regina che vigilava nel corridoio, difficilmente saremmo indotti a biasimarlo. Era giovane, quasi un fanciullo. Faceva solo quello che la natura gli ordinava. Quanto alla ragazza, ne ignoriamo il nome al pari della regina Elisabetta. Poteva essere Doride, Clori, Delia o Diana, poiché Orlando aveva composto versi via via per tutte loro. Così come può essere stata tanto una dama di corte quanto una cameriera. Perché Orlando era di gusti vari, non amava solo i fiori di giardino, ma lo affascinavano sempre anche quelli di prato e perfino le erbe selvatiche. E qui abbiamo messo a nudo, con la rude franchezza permessa al biografo, un tratto curioso di Orlando, spiegabile forse col fatto che qualcuna delle sue antenate aveva indossato camicie di tela rozza e portato secchi di latte. Qualche granello di terra del Kent o del Sussex si mescolava al bel sangue leggero che gli veniva dalla Normandia. Un miscuglio di terra bruna e di sangue blu che egli riteneva eccellente. È certo che aveva sempre avuto una predilezione per la compagnia dei bassi ceti, specie per quella degli uomini di lettere, che il loro ingegno mantiene così spesso in condizione inferiore, come se ci fosse stata tra di loro un'affinità di sangue. In quella stagione della sua vita, allorché la testa gli traboccava di rime e mai si coricava senza aver escogitato qualche metafora, la guancia della figlia di un'oste gli pareva più fresca e lo spirito della nipote di un guardacaccia più vivace di quello delle dame di corte. Così prese l'abitudine di andare spesso a Wapping Old Stairs e nelle birrerie all'aperto di notte, avvolto in un mantello grigio che gli nascondeva la stella al collo e la giarrettiera al ginocchio. Là, con un boccale davanti, tra i sentieri cosparsi di ghiaia, i campi di bocce e le semplici architetture di luoghi simili, ascoltava dai marinai storie di miserie, di orrori e di crudeltà avvenute in terra di Spagna, come alcuni avessero perso l'alluce, altri il naso, perché la storia parlata non aveva mai la tornitura né i bei colori della storia scritta. Amava particolarmente sentirli berciare le loro canzoni delle azzorre, mentre i pappagalli che avevano portato di laggiù beccavano i loro orecchini, picchiavano col duro becco rapace i rubini che portavano alle dita e bestemmiavano grossolanamente come i loro padroni. Le donne, in confronto a quegli uccelli, erano appena meno audaci nel parlare e meno libere di modi. Gli si sedevano sulle ginocchia, gli avvinghiavano le braccia al collo, e indovinando che dietro la cappa di lana ruvida si nascondeva qualcosa di non comune, erano altrettanto ansiose di venire al dunque quanto Orlando stesso. E le occasioni non mancavano. Il fiume, dalle prime ore alle più tarde, era vivo di chiatte, barchette e imbarcazioni di ogni sorta. Ogni giorno qualche bella nave scioglieva le vele per le Indie. Di tanto in tanto altre, annerite e lacere, con a bordo uomini irsuti, si trascinavano faticosamente all'ancora. Nessuno si curava se un ragazzo o una ragazza amoreggiavano sull'acqua dopo il tramonto, né aggrottava la fronte se si ciarlava di averli visti dormire sodo l'uno tra le braccia dell'altra in mezzo ai sacchi del bottino. E in tale avventura incorsero Orlando, Saki e il conte di Cumberland. La giornata era calda, i loro amori erano stati vivaci, si erano addormentati tra i rubini. A tarda notte il conte, le cui fortune erano molto legate alle imprese spagnole, venne da solo con una lanterna a controllare il bottino. Proiettò la luce su un barile, fece un salto indietro con una bestemmia. Allacciati contro le botti dormivano due fantasmi. Superstizioso per natura e con la coscienza gravata da più di un delitto, il conte prese la coppia, erano avvolti da un mantello rosso e il seno di Suki era bianco quasi come le nevi eterne della poesia di Orlando, per un fantasma balzato, per svergognarlo dalle tombe di marinai annegati. Si segnò, giurò di pentirsi, la fila di ospizi che c'è ancora oggi in Shin Road è il frutto visibile di quel momento di panico. Ancora oggi 12 povere vecchie della parrocchia bevono il tè e la sera benedicono sua grazia per il tetto che hanno sulla testa, cosicché l'amore illecito su una nave corsara. Ma risparmiamoci la morale. Orlando tuttavia si stancò presto, non solo dei disagi di quella vita e del groviglio di strade di quel quartiere, ma dei modi primitivi di quella gente. Bisogna infatti ricordare che delitto e povertà presso gli elisabettiani non avevano affatto quelle attrattive che noi prestiamo loro. L'erudizione non era affatto per loro oggetto di vergogna, né credevano come noi che il nascere figlio di un macellaio fosse una benedizione e il non saper leggere una virtù, né erano convinti che quel che noi chiamiamo vita e realtà fossero connessi con l'ignoranza e la brutalità. A dire il vero, non c'era neppure un equivalente per queste due parole. Non era per cercare la vita che Orlando era andato tra loro, né li abbandonò per scoprire la realtà. Ma dopo aver sentito raccontare una dozzina di volte come Jakes avesse perduto il naso e Sookie l'onore, e queste storie le raccontavano in modo ammirevole, dobbiamo riconoscerlo, cominciò a stancarsi un po' della ripetizione, perché un naso può essere tagliato in un modo solo e la verginità perduta solo in un altro, o così gli pareva, mentre nelle arti e nelle scienze c'era una varietà che stimolava profondamente la sua curiosità. Così, pur serbandone un buon ricordo, smise di frequentare le birrerie all'aperto e i giochi di birilli, appese in guardaroba il mantello grigio, lasciò brillare la stella sul suo collo e scintillare la giarrettiera al ginocchio e riapparve alla corte di Re Giacomo. Era giovane, era ricco, era ben fatto, nessuno avrebbe potuto essere accolto con più favore. È certo che molte dame erano pronte ad accordargli le loro grazie. I nomi di almeno tre di esse furono apertamente accoppiati al suo: Clorinda, Favilla, Eufrosine. Così le chiamò nei sonetti. Procediamo con ordine. Clorinda era un'amabile dama dai modi soavi. In verità Orlando ne fu molto innamorato per 6 mesi e mezzo, ma aveva le ciglia bianche e non sopportava la vista del sangue. Una lepre servita arrosto alla tavola del padre la faceva svenire, e poi subiva troppo l'influsso dei preti e risparmiava sulla sua biancheria per fare elemosine ai poveri. Si era assunta il compito di salvare Orlando dal peccato, il che lo seccò, ruppe la promessa di matrimonio e non provò gran rimpianto quando lei, poco dopo, morì di vaiolo. Favilla, che viene dopo, era di tutt'altro tipo. Era figlia di un gentiluomo povero del Somersetshire. A forza di insistenze assidue e dell'uso accorto dei suoi sguardi, s'era fatta strada fino a corte, dove la sua destrezza d'amazzone e il suo bel portamento e la sua grazia nel ballare le conquistarono l'ammirazione di tutti. Ma una volta si mostrò tanto sconsiderata da frustare all'ultimo sangue sotto le finestre di Orlando uno spaniel che le aveva strappato una calza di seta. E per amor di giustizia bisogna dire che Favilla aveva poche calze e quasi tutte di lana grezza. Orlando, che amava appassionatamente gli animali, notò ora che lei aveva i denti storti e i due incisivi centrali rivolti indentro, il che, disse, nelle donne, era segno certo di indole perversa e crudele. Così ruppe definitivamente il fidanzamento quella sera stessa. La terza, Eufrosine, fu di gran lunga la sua fiamma più importante. Apparteneva per nascita ai Desmond di Irlanda e aveva quindi un albero genealogico altrettanto antico e profondamente radicato quanto quello di Orlando. Era bionda, prosperosa e un po' flemmatica. Parlava bene l'italiano, aveva nella mascella superiore una fila di denti perfetti, benché quelli dell'inferiore fossero un po' ingialliti. Nulla si vedeva mai senza un levriero o uno spaniel accanto, li nutriva di pane bianco dal suo stesso piatto. Cantava dolcemente alla spinetta e non era mai pronta prima di mezzogiorno. Per l'estrema cura che aveva della sua persona, in breve, sarebbe stata una moglie perfetta per un gentiluomo come Orlando, e le cose erano già a tal punto che da entrambe le parti i notai erano affaccendati con contratti, assegni, dotazioni, case con terreni, proprietà e tutto quello che si richiede perché una grande fortuna possa unirsi ad un'altra, quando con la subitaneità e la durezza che contraddistinguevano il clima inglese sopravvenne il grande gelo. Il grande gelo fu, a quel che ci dicono gli storici, il più rigido che mai abbia colpito le nostre isole. Gli uccelli gelavano a mezz'aria e cadevano al suolo come sassi. A Norwich, una giovane contadina iniziò ad attraversare la strada in ottima salute, come era di solito, e fu vista distintamente dagli astanti polverizzarsi e volar via in una folata di cenere sopra i tetti, colpita all'angolo della strada dal vento gelido. Fu enorme la moria di greggi e di bestiame, i cadaveri gelavano e non si poteva estrarli dalle lenzuola. Non era raro imbattersi in un intero branco di porci congelati e immobilizzati in mezzo alla strada. I campi erano pieni di pastori, bifolchi, tiri di cavalli, ragazzi che davano la caccia agli uccelli, tutti fissati nell'atto del momento, uno con la mano al naso, un altro con la bottiglia alle labbra, un terzo in atto di scagliare la pietra contro i corvi immobili. Come impagliati sulla siepe a due passi da lui. La violenza del gelo era così eccezionale che talvolta provocava una specie di pietrificazione e un grande incremento di rocce in certe parti del Derbyshire. Fu comunemente attribuito non ad eruzioni che non si erano verificate, ma al solidificarsi di sventurati viandanti che erano stati letteralmente tramutati in pietra dove si trovavano. In quel frangente la Chiesa poté offrire poco aiuto, e se è vero che qualche proprietario fece benedire quei resti, la maggior parte preferì usarli come pietre di confine, raschiatoi per le pecore, o, quando la forma della roccia lo consentiva, come abbeveratoi per il bestiame, usi ai quali servono, per lo più eccellentemente, ancora oggi. Ma mentre la gente di campagna soffriva la più dura indigenza e ogni commercio era sospeso nel paese, Londra festeggiava un carnevale di uno splendore mai visto. La corte era a Greenwich e il nuovo re colse l'occasione dell'incoronazione per guadagnarsi il favore dei sudditi. Diede ordine che il fiume, gelato a una profondità di 20 piedi e più per 6 o 7 miglia nei due sensi, venisse spazzato e ornato in modo da assumere l'aspetto di un parco o di un luogo di delizie, con pergole, labirinti, viali, padiglioni di ristoro, eccetera. Tutto a sue spese. Per sé e per i cortigiani riservò un certo spazio, proprio di fronte ai cancelli del Palazzo Reale, spazio che solo un cordone di seta separava dal pubblico e che divenne subito il centro della più brillante società d'Inghilterra. Grandi funzionari con barba e gorgiera sbrigavano gli affari di Stato sotto la tenda scarlatta della Pagoda Reale. Capitani vi preparavano la conquista del Moro e la caduta del Turco. Sotto le pergole imbandierate sormontate da piume di struzzo. Ammiragli misuravano a larghi passi i sentieri, cannocchiale alla mano, spazzando a gran gesti l'orizzonte e raccontando storie del passaggio a nord-ovest e dell'armata spagnola. Coppie amoreggiavano su divani ricoperti di zibellino. Rose gelate piovevano sulla regina e sulle sue dame quando uscivano. I palloni variopinti si libravano immobili nell'aria. Qua e là ardevano grandi falò di cedro e di quercia su cui si gettava sale a profusione, così che le fiamme si facevano verdi, arancio e porpora. Ma per quanto vive fossero, il calore non bastava a fondere il ghiaccio, che pure di singolare trasparenza aveva la durezza dell'acciaio. Era così limpido che attraverso di esso si potevano vedere congelate a parecchi piedi di profondità. Qua una focena, là una sogliola, frotte di anguille giacevano immobili, cataletiche. Ma se il loro fosse uno stato di morte o solo di vita sospesa, che il calore avrebbe rianimato, era un problema che imbarazzava gli scienziati. Vicino al ponte di Londra, dove il fiume era gelato fino a circa 20 braccia, si vedeva distintamente, ferma sul greto, una chiatta naufragata, laddove, sovraccarica di mele, era colata a picco l'autunno precedente. La vecchia fruttivendola della Chiatta, che andava a vendere la sua frutta al mercato del Surrey, sedeva ancora là, coi suoi scialli e guardinfanti, il grembo pieno di mele. E si sarebbe giurato che stesse servendo un cliente se le labbra bluastre non avessero tradito la verità. Era lo spettacolo preferito di Re Giacomo, che soleva condurre con sé a guardarlo uno stuolo di cortigiani. Insomma, di giorno la scena era di insuperato splendore e gaiezza, ma era di notte che il carnevale toccava il culmine. Il gelo persisteva immutato, le notti erano di una calma perfetta, la luna e le stelle brillavano con la dura fissità di diamanti e alla bella musica di flauti e trombe i cortigiani danzavano. Orlando, è vero, non era tra i ballerini più disinvolti di corrente e di volta, era maldestro e un po' distratto. Quelle bizzarre cadenze straniere preferiva di gran lunga le semplici danze del suo paese, che gli erano note fin dall'infanzia. Appunto sul finire d'una di quelle quadriglie o minuetti verso le 6 di sera, il 7 di gennaio, Orlando stava unendo i piedi allorché vide uscire dal padiglione dell'ambasciata moscovita una figura che, fosse d'uomo o di donna, poiché la tunica lenta e i pantaloni alla moda russa ne nascondevano il sesso, lo riempì della più viva curiosità. La persona, qualunque ne fosse il nome e il sesso, era di statura media, di forme molto slanciate e tutta vestita di velluto color ostrica, guarnito di pellice esotica a riflessi verdastri. Ma quei particolari scomparivano di fronte alla seduzione straordinaria che emanava l'intera persona. Le immagini, le metafore più ardite e stravaganti si intrecciarono e guizzarono nella mente di Orlando. In 3 secondi la chiamò melone, ananas, olivo, smeraldo e volpe della neve. Non sapeva se l'avesse udita, gustata, vista o tutte e 3 le cose insieme. Per quanto ci sentiamo in dovere di non interrompere mai il racconto, ci permettiamo di notare in tutta fretta che a quell'epoca le immagini di Orlando erano estremamente semplici, in accordo coi suoi sensi, e riferite ai gusti delle cose che più gli piacevano da ragazzo. Impossibile fermarci qui a cercarne le ragioni. Un melone, uno smeraldo, una volpe della neve, così delirava, contemplandola estasiato. Quando il ragazzo, perché ahimè era certo un ragazzo, quale donna avrebbe pattinato con tanta velocità e vigore, lo sorpassò, scivolando quasi sulle punte dei piedi, Orlando stava per strapparsi i capelli dalla disperazione che fosse una persona del suo stesso sesso e che ogni abbraccio fosse quindi fuori causa. Ma il pattinatore si avvicinò. Gambe, braccia, portamento erano quelli di un ragazzo, ma nessun ragazzo aveva una bocca come quella. Seni come quelli, occhi come quelli che parevano pescati dagli abissi marini. Finalmente, fermandosi e facendo con grazia suprema una reverenza davanti al re, che si trascinava al braccio di un gentiluomo al suo servizio, lo sconosciuto pattinatore restò immobile. Era a 2 passi da lui. Era una donna. La contemplò. Tremò, ebbe caldo, ebbe freddo, anelò di lanciarsi nell'aria d'estate, di schiacciare ghiande sotto i piedi, di muovere le braccia con i faggi e le querce. Intanto rialzò leggermente le labbra sui minuti denti bianchi, le aprì di un mezzo pollice come per mordere, le chiuse come in un morso. Lady Eufrosine gli si era appesa al braccio. La straniera apprese. Era la principessa Marussia Stanilovska Dagmar Natascia Iliana Romanovich ed era venuta a seguito dell'ambasciatore moscovita, che forse era suo zio o forse suo padre, per assistere alle feste dell'incoronazione. Dei moscoviti si sapeva ben poco, con le loro grandi barbe e i colbacchi di pelo. Sedevano quasi senza far parola e bevevano un liquido nero che ogni tanto sputavano sul ghiaccio. Nessuno parlava l'inglese e il francese, che era familiare almeno a qualcuno di loro, allora si parlava assai poco alla corte d'Inghilterra. Fu questo che permise a Orlando e alla principessa di conoscersi. Si trovarono seduti l'uno di fronte all'altra alla gran tavola allestita per i notabili sotto una vasta tenda. La principessa stava tra 2 giovani gentiluomini, uno era Lord Francis Vere e l'altro il giovane conte di Moret. Fu da ridere l'imbarazzo in cui lei li mise subito, poiché, per quanto a modo loro fossero bei ragazzi, di francese ne sapevano quanto un neonato. Quando, all'inizio del pranzo, la principessa si volse al conte e gli disse con una grazia che lo incantò: «Je crois avoir fait la connaissance d'un gentilhomme qui vous était apparenté en Pologne l'été dernière», oppure «La beauté des dames de la cour d'Angleterre me met dans le ravissement». On ne peut voir une dame plus gracieuse que votre reine, ni une coiffure plus belle que la sienne. Lord Francis e il conte apparvero estremamente confusi. Il primo le servì salsa a rafano in quantità, l'altro fischiò al suo cane e si fece pregare per dargli un ossobuco. Allora la principessa non poté frenare oltre il riso e Orlando, incrociando nello sguardo fra le teste di cinghiale i pavoni farciti, rise a sua volta. Rise. Ma il riso gli si gelò attonito sulle labbra. Chi aveva amato? Cosa aveva amato finora? Si chiedeva in un tumulto di emozione. Una vecchia tutta pelle e ossa rispose: delle prostitute imbellettate, troppe per ricordarsene, una monaca piagnucolosa, un'avventuriera dalla bocca feroce, azzannata dai cani, un ammasso tentennante di merletti e salamelecchi. L'amore non era stato per lui che polvere e cenere. Le gioie che ne aveva tratto erano totalmente scipite. Si meravigliò di averle subite senza sbadigliare. E mentre la guardava, lo spessore del sangue gli si scioglieva, il ghiaccio nelle vene gli si mutava in vino, sentiva le acque scorrere e gli uccelli cantare. La primavera prorompeva sul rigido paesaggio invernale, la sua virilità si destava. Afferrò una spada, caricò un nemico più degno del polacco o del moro, si tuffò in acque profonde, vide il fiore del pericolo annidato in un crepaccio, stese la mano. Per la verità stava sciorinando uno dei suoi sonetti più appassionati, allorché la principessa gli si rivolse. «Vorreste avere la bontà di passarmi il sale?» Egli arrossì violentemente. «Col più gran piacere del mondo, madame», rispose in un francese dall'accento perfetto. Grazie al cielo, egli parlava quella lingua come la sua. Gliel'aveva insegnata la cameriera della madre. Eppure, forse, sarebbe stato meglio per lui se non avesse mai imparato quella lingua, mai risposto a quella voce, mai seguita la luce di quegli occhi. La principessa continuò. Chi erano quegli zotici, chiese, che le sedevano accanto con dei modi da stalliere? Cos'era quell'intruglio nauseabondo che le avevano versato nel piatto? In Inghilterra i cani mangiavano alla stessa tavola delle persone. E quella figura ridicola a capotavola, con capelli acconciati come un albero della cuccagna, come un grand perche malfagoté, era davvero la regina? E il re sbavava sempre così? E quale di quei burattini era George Villiers? Per quanto queste domande dapprima sconcertassero alquanto Orlando, erano poste con tanta audacia e piacevolezza che non seppe fare a meno di ridere. Vide dalle facce assenti della compagnia che nessuno capiva una parola e le rispose con la stessa libertà, parlando come lei, in perfetto francese. Così nacque tra i due un'intimità che divenne ben presto lo scandalo della corte. Ben presto si osservò che Orlando prestava alla moscovita molta più attenzione di quanto richiedesse la pura cortesia. Raramente si allontanava dal suo fianco e la loro conversazione, benché incomprensibile a tutti gli altri, procedeva con tanta animazione e provocava tali rossori e risate che perfino il più stupido poteva indovinarne l'argomento. La metamorfosi di Orlando era ancora più straordinaria. Nessuno l'aveva mai visto così animato. In una notte sola s'era spogliato della sua goffaggine fanciullesca e l'imbronciato adolescente che non era capace di entrare nella stanza di una dama senza spazzar via dal tavolo metà dei ninnoli era diventato un gentiluomo pieno di grazie e di virile cortesia. Vederlo accompagnare la moscovita, così la chiamavano, alla sua slitta, o offrire la mano per la danza, o raccogliere il fazzoletto ricamato che aveva lasciato cadere, o prodigarle tutte quelle svariate e minute attenzioni che la dama prediletta esige e che l'amante si affretta a prevenire, era uno spettacolo tale da riaccendere gli occhi spenti della vecchiaia e da accelerare ancora più il polso rapido della giovinezza. Ma una nube incombeva su tutto questo. I vecchi scrollavano le spalle, i giovani ridacchiavano sotto i baffi, tutti sapevano che Orlando era promesso a un'altra. Lady Margaret O'Brien O'Dare O'Reilly Tyrconnell. Era questo il vero nome delle eufrosine dei sonetti. Portava lo splendido zaffiro di Orlando al secondo dito della mano sinistra. Aveva lei il diritto supremo a ogni attenzione. Ma avrebbe potuto lasciar cadere sul ghiaccio tutti i fazzoletti del suo guardaroba, che ne conteneva varie dozzine. Orlando non si fermava mai a raccoglierli. Poteva aspettare anche 20 minuti che lui l'accompagnasse alla slitta. Alla fine doveva accontentarsi dei servizi del suo moretto. Quando pattinava, il che faceva con notevole goffaggine, nessuno la rialzava e le scuoteva la neve dalle vesti. Benché di natura flemmatica, lenta a offendersi e più riluttante degli altri a credere che una qualunque straniera potesse rubarle il cuore di Orlando, alla fine, tuttavia, anche Lady Margaret non poté fare a meno di sospettare che qualcosa congiurava contro la pace del suo spirito. In verità, col passare dei giorni, Orlando si curava sempre meno di nascondere i suoi sentimenti. Con qualche scusa, appena finito il pranzo, abbandonava la compagnia o si eclissava quando i pattinatori si appaiavano per una quadriglia. Un momento dopo si notava che mancava anche la moscovita. Ma quel che più oltraggiava la corte e la pungeva più nel vivo, cioè nella vanità, era il vedere spesso la coppia sgusciare via sotto il cordone di seta che separava il recinto reale dalla parte pubblica del fiume e sparire tra la folla volgare. perché all'improvviso la principessa batteva il piede e gridava: «Portatemi via! Detesto la vostra gentaglia inglese!» Parole con cui intendeva la corte inglese. Non la sopportava più, era piena, diceva, di vecchie ficcanaso che non vi tolgono gli occhi di dosso e di giovani presuntuosi che vi pestano i piedi. Puzzavano, i loro cani le correvano tra le gambe, sembrava d'essere in gabbia. In Russia c'erano fiumi larghi 10 miglia su cui si poteva galoppare tutto il giorno a briglia sciolta, con un tiro a 6 senza incontrare anima viva. E poi lei voleva vedere la Torre di Londra, i mangiatori di manzo, le teste mozze di Temple Bar e le botteghe dei gioielli nella City. Fu così che Orlando la portò in città, le mostrò i mangiatori di manzo e le teste mozze dei ribelli, e al Royal Exchange le comprò tutto quello che la colpiva. Ma non bastava. Ognuno desiderava sempre più la compagnia dell'altro, da solo a sola, per tutto il giorno e lontano da occhi curiosi e insistenti. Perciò, invece di prendere la strada per Londra, andarono in direzione opposta e si trovarono subito lontani dalla folla sulle distese gelate del Tamigi, dove, fuorché gli uccelli marini e qualche vecchia contadina che rompeva il ghiaccio nel vano tentativo di attingervi un secchio d'acqua, o raccoglieva rami e foglie secche per il fuoco, non incontravano mai anima viva. I poveri se ne stavano rinchiusi nelle capanne e i più agiati, che potevano permetterselo, correvano a cercar calore e allegria tra la folla cittadina.